أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على Buonasera, siete in diretta con una nuova trasmissione di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Qui al CSA Janassen, la sede di Radio Asilio, il nostro studio, sono le 19.02, martedì 29 giugno, fa parecchio caldo, Davide. Ci stiamo per apprestare ad affrontare questa nuova puntata di Andala, in cui vi parleremo di una serie di fatti che sono avvenuti nel corso di questa settimana, alcuni di questi veramente molto gravi. Davide, inizia con forse quello lì più efferato, diciamo. Diciamo che buonasera a tutte e tutti, innanzitutto, diciamo quello che ha sconvolto la Palestina in queste settimane è stata la morte per mano delle forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese dell'intellettuale politico Nizar Banat. La famiglia ha descritto l'aggressione brutale che è avvenuta di fronte ai loro occhi nelle prime ore dell'alba di venerdì scorso, e una descrizione che racconta di un violento pestaggio, del rapimento e della sparizione, infine dell'uccisione di Nizar da parte della polizia dell'ANP. Nizar era noto per le sue fervide critiche rivolte da un lato contro il colonialismo, l'oppressione e l'apartheid israeliana, e dall'altro contro una leadership palestinese che non rappresenta il popolo palestinese. Edward Said, noto intellettuale palestinese, sottolineava i numerosi sistemi di dominio implementati a danno del popolo palestinese, che si ritrova in lotta sia con il progetto israeliano di segregazione e colonizzazione, sia con la corruzione, la brutalità della polizia e il vuoto di democrazia che caratterizza l'autorità nazionale palestinese, nata da Oslo. Quest'ennesima azione di repressione di attivisti intellettuali palestinesi quindi ci porta ancora una volta a condannare le collaborazioni nate dagli accordi di Oslo tra l'ANP e il regime israeliano, e quindi il coordinamento per la sicurezza. Quello che è seguita alla morte di Nizar è stata un'ondata di sdegno generalizzato in tutta la Palestina. Ci sono stati fino a ieri e anche oggi ci sono stati scontri violenti nelle strade di Ramallah, Nablus, e abbiamo assistito a pestaggi indiscriminati da parte delle forze di sicurezza preventiva dell'autorità nazionale palestinese, che in borghese dentro alla folla utilizzavano gli stessi meccanismi utilizzati dagli israeliani per reprimere le proteste e la resistenza popolare in Cisgiordania. Abbiamo assistito ad immagini brutte, davvero drammatiche, ma che sono l'emblema di quella che è la rabbia popolare da una parte contro un'autorità corrotta che non rappresenta gli interessi del popolo palestinese, e dall'altra di un'autorità appunto che fa venire fuori tutto ciò che rappresenta in concreto per la Palestina e per il suo popolo, uno strumento dell'occupazione. Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni compagni palestinesi che sono intervenuti anche a Radio Onda Rossa, e infatti uno di questi compagni diceva: L'ANP non rappresenta più una contraddizione secondaria, ma rappresenta una contraddizione principale, così come l'occupazione. L'ANP è l'occupazione. E sono stati rilasciati diversi comunicati, tra cui un importante, proprio perché a sottolineare che non siamo noi. Alcune volte quando si critica l'autorità palestinese in Italia sembra che noi vogliamo esacerbare gli animi e le divisioni nel campo palestinese. In realtà la prospettiva è appunto quella di sviluppare una discussione verso una progettualità politica altra, una progettualità politica appunto che sia basata sulla lotta di classe, la lotta di popolo, sull'internazionalismo proletario, e non certo nell'appoggiare strutture di potere che con i soldi che sono piovuti in Palestina hanno fatto solo i loro interessi e quelli della loro cricca. Nel visitare la Palestina nel corso degli anni abbiamo assistito a immagini agghiaccianti, a passare dal degrado e la miseria del campo profughi vicino Ramallah di Jalazon, dove l'acqua arriva due volte al mese, alle stanze invece dei rappresentanti dell'autorità nazionale con Rolex, aria condizionata e tutto il necessario per vivere una vita comoda e non certo una vita seppur di occupazione, ma una vita di collaborazione che porta i suoi frutti. Io direi, Michele, se vogliamo fare uno stacchetto pubblicitario, dopo torniamo e leggiamo il comunicato dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa, proprio in seguito all'uccisione del compagno Nizar. Leggiamo questo comunicato dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito 4 giorni fa. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa imputa la piena responsabilità per l'uccisione del militante oppositore palestinese Nizar Banat alla dirigenza dell'autorità palestinese e di suoi servizi di sicurezza e considera ciò che è avvenuto un grave crimine e quei responsabili non devono restare impuniti. L'Unione ha sottolineato che il criminale assassinio del militante palestinese, che ha combattuto la corruzione con la sola arma della parola, mette a nudo definitivamente l'ANP e la sua dirigenza, divenuto ormai un grande fardello sulle spalle del nostro popolo, non degna di essere custode del nostro popolo e dei suoi diritti nazionali. L'Unione aggiunge inoltre che questo crimine pone dinanzi alle fazioni, alle forze, a tutti i settori del nostro popolo la responsabilità di continuare a rapportarsi con questa autorità che continua a portare avanti la collaborazione di sicurezza e ad uccidere il nostro popolo a sangue freddo. L'Unione invita i figli delle comunità palestinesi nella diaspora, specie in Europa, ad alzare la propria voce e condannare questo grave crimine, a rifiutare le pratiche ed i crimini perpetrati dall'autorità palestinese nei confronti del popolo palestinese, sottolineando la necessità di isolare questa dirigenza e mostrare come questa non rappresenti né il nostro popolo né tantomeno la sua causa. L'Unione conclude invitando le masse popolari del nostro popolo a mobilitarsi immediatamente per raggiungere per respingere le pratiche distruttive dell'ANP, a perseguirne e ad isolarne i dirigenti, che ormai sfruttano la questione palestinese per mero interesse personale e per trarne esclusivo beneficio personale. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa, 24 giugno 2021. Quindi una dura presa di posizione da parte delle comunità palestinesi in Europa. È stata una presa di posizione importante, anche perché è ora di rompere con questo falso internazionalismo e questo falso supporto da parte, questo lo dico da parte nostra, non tanto da parte dei palestinesi, è ora di rompere con dei progetti che sono fasulli e che non fanno e che non rappresentano la lotta all'imperialismo e al colonialismo, anzi che perpetuano il progetto coloniale, perché l'autorità nazionale palestinese Oslo è stata progettata proprio per perpetuare il progetto coloniale, tanto che in questi giorni, proprio oggi sono incominciate le demolizioni nel quartiere arabo di Gerusalemme di Silwan, la colonizzazione avanza, abbiamo un governo israeliano che è espressione della destra più estrema, quindi questi 20 anni da Oslo hanno generato solo una democrazia, una borghesia palestinese che noi abbiamo alimentato con i nostri finanziamenti e le elargizioni di denaro. Però questo a chi ha giovato? Di certo non ha giovato al popolo, di certo non ha giovato ai profughi dei campi, di certo non ha giovato alla striscia di Gaza, di certo non ha giovato ai rifugiati dei campi fuori dalla Palestina. Quindi il nostro compito è anche quello di rompere con queste forme, con questi modelli perdenti, perché alla fine la giustizia può arrivare solo alla liberazione della Palestina, così come la nostra liberazione può arrivare solo dalla giustizia e dalla rottura di quei rapporti di oppressione di cui l'autorità ne è pienamente partecipe, e soprattutto di prendere una distanza rispetto a quelli che sono i rappresentanti dell'autorità palestinese in Italia, che si nascondono dentro altre sigle, ma che in realtà non perseguono gli interessi del proprio popolo. Molto spesso ci dice: vabbè, ma noi siamo italiani, non dobbiamo entrare in queste divisioni, come dicevo anche prima, però è importante sottolinearlo più volte: noi siamo dei compagni e cerchiamo di praticare con i nostri modesti mezzi e comunque di sviluppare un pensiero internazionalista e soprattutto anticapitalista. Quindi bisognerebbe che insieme si rifletta sul fatto di invece appoggiare dei progetti che non fanno che perpetuare la continuazione della colonizzazione, che poi si voglia dire che rappresentano una prima vittoria verso un successivo sviluppo, sono i fatti a dimostrarne l'infondatezza. Allora, se si è combattuto contro il progetto coloniale del Sudafrica, che prevedeva che i neri sudafricani dovessero vivere nelle enclavi, non si capisce perché oggi bisogna accettare il progetto coloniale che comprende l'autorità palestinese, per cui i palestinesi possono vivere nelle enclavi, anzi vivono delle enclavi da 20 anni in queste città palestinesi che sono completamente circondate dai coloni e dall'esercito israeliano. Allora, se questa è la via della liberazione, se questa è la via della giustizia, noi non siamo per questa via, noi siamo dalla parte della resistenza, e la resistenza e soprattutto le masse popolari che sono scese in piazza in questi giorni in Palestina ci dicono altro, manifestano la loro insofferenza. E ieri l'abbiamo sottolineato, ieri eravamo a Bari, visto che c'è stato uno dei primi incontri del G20, la mattina c'è stato anche un presidio proprio per protestare contro le esercitazioni militari congiunte israeliane, italiane, americane delle forze inglesi. E di pochi giorni fa il rifinanziamento di un altro di EastMed, del gasdotto Israele-Italia, che avrà proprio una connessione nel Salento, e c'è stato appunto il sì del governo appunto a questo progetto, che è chiamato anche Poseidon, e il ministro infatti della transizione ecologica ha prorogato i termini per realizzare il tratto italiano del Poseidon, che doveva essere realizzato entro quest'anno, ma poi ci sono state dei ritardi dovuti anche all'opposizione da parte del governo Conte, ma ora sembra che ci sia l'intenzione di andare avanti anche nell'ambito del nuovo PNRR. Questo per dire come sia molto legata la Palestina alle strategie geopolitiche internazionali che sta mettendo in campo il nostro paese, e soprattutto ai nostri territori, soprattutto quelli del meridione. Ed è per questo che come collettivo Andala, come centro sociale di Anassen, abbiamo deciso di partecipare a questa, una delle prime tappe contro il G20, che vedrà poi date importanti anche a Napoli dal 20 al 23 luglio. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Is it just a dream? Am I a fool for trying? I stand defiant, but my enemy's the tallest giant. Will my visions be reality? They tell me never. I wanna feel the unity that Malcolm felt in Mecca. I wonder if it made sense in his last moments. People don't value the soul cause they can't hold it. Find something real beyond death and misery, and understand the present in the context of history. It's been established Sykes-Picot was a bit of marriage since the day Thomas Edward Lawrence tricked the Arabs. Please be loyal till we're deep in soil. You can ask Mossadegh about BP oil. This is a battle that many better men have died fighting, but I hope to leave an insight through my writing. My pen fires at the men who defend liars. I send fire till the end of your empire. Who's back? Descendant of the occupied. I represent the sentiments of many men you've colonized. The president is eloquent, but he's never been on my side. His melanin's irrelevant, cause everything was prophesized. There was a time when they talked about the Arab nation. Broke her good leaders, the roadmap was a fabrication. Took your kafir and changed it to a fashion statement. You sat with Satan, Camp David means assassination. Peace in your imagination, that's not real. I've been where Arafat got poisoned and Sadat got killed. I'm not a martyr, I'm just a man without a master's or a master. Runaway slave, it's freedom I am after. This is a battle that many better men have died fighting, but I hope to leave an insight through my writing. My pen fires at the men who defend liars. I send fire till the end of your empire. Like Zajin, the peaceful dove of Palestine, I will fly, I will rise far beyond the seventh sky. I will break free and soar through the lies, seeking truth, seeking the justice that is mine, the justice that is mine. I will stand, I will climb, I will spread my wings, elevate and rise. I will rise, I will rise, we will rise. Bene Davide, sì, sicuramente We Will Rise, perché ce n'è bisogno. Anche per quello che hai detto tu prima rispetto al sostegno, magari anche, come dire, con buone intenzioni rispetto alle borghesie palestinesi, che fondamentalmente fanno esattamente quello che fanno le borghesie di tutto il mondo. Cioè sono come dire, semplicemente dei predatori che depauperano, come dire, il lavoro dei palestinesi, così come le borghesie italiane sfruttano i lavoratori. E quello è il famoso filo rosso di cui cerchiamo spesso di parlarvi quasi tutte le settimane, diciamo, ormai già da un paio d'anni, forse anche qualcosina in più. E Davide, tu prima stavi parlando di questo progetto che purtroppo è l'ennesimo di questo tipo, che poi fa parte della come dire, del nuovo colonialismo che sta avvenendo un po' in tutto il bacino del Mediterraneo. Infatti, così come Israele e non solo, vari paesi cercano appunto di far valere i propri diritti economici nella regione, così purtroppo questi progetti vanno a toccare anche l'Italia, così come del resto anche le esercitazioni militari congiunte, che non rappresentano soltanto un segno di amicizia tra i popoli, ma ricordiamolo, rappresentano accordi economici di miliardi di euro, che sicuramente, insomma, in nostro nome noi non possiamo accettare che lo Stato italiano abbia alcun tipo di rapporto con chi pratica la pulizia etnica, l'apartheid e l'occupazione. Comunque, Davide, per parlare un po' più nello specifico di questo progetto Poseidon, di cui tra l'altro ieri siamo stati, come dicevi, alla manifestazione, che in realtà era anche uno dei temi sul tavolo, perché non si parlava soltanto di antimilitarismo in senso stretto, ma proprio di, come dire, una forma di opposizione sociale popolare rispetto a queste forme di nuovo colonialismo. Sì, era importante esserci ieri, anche perché si trattava uno dei primi appuntamenti appunto contro il G20, che è l'incontro tra le grandi economie della terra che si incontrano per decidere le sorti del mondo. E quindi era importante dare un segnale nel senso che in cui si manifestasse il fatto che, cioè, noi che non siamo rappresentati, non ci sentiamo rappresentati da nessuno, non vogliamo essere complici di queste porie, anzi si gettano le basi per contrastare e per contrattaccare nel possibile l'imperialismo e queste nuove strategie, i nuovi progetti dell'imperialismo. E quindi tra questi nuovi progetti e soprattutto che rientra anche nell'ambito di un più grande progetto di ridefinizione energetica, o meglio, cioè, prima di arrivare di procedere verso le energie rinnovabili, puntando innanzitutto a un processo di decarbonizzazione, in secondo momento a cercare di azzerare l'uso del petrolio e poi quello del gas. E quindi in questa strategia c'è stata una modifica da parte del governo italiano, c'è stata una modifica rispetto al precedente governo giallorosso Conte, che aveva quasi bocciato il Poseidon. In realtà non è così, infatti c'è stato il sì del governo al Poseidon, dato proprio dal ministro della transizione ecologica. Quindi la Puglia potrebbe diventare tra 4 anni l'approdo europeo di un secondo gasdotto che si aggiunge al TAP, o che comunque potrebbe innestarsi anche sul TAP, visto che nel mese scorso c'era stata anche l'ambasciatore di Israele in Puglia, proprio al cantiere del TAP, e proprio sebbene la visita non riguardasse questo, è facile pensare che si sia parlato anche di ciò, proprio al fine di portare in porto il progetto Poseidon e quindi l'innesto di questo gasdotto sul gasdotto in costruzione sul TAP. Ok, quindi l'effetto del decreto del 26 marzo scorso, con cui il ministro della transizione ecologica quindi ha prorogato i termini per l'avvio alla realizzazione del Poseidon, e quindi l'approdo di questo nuovo tubo è previsto ad Otanto, e a soli 20 km da Melendugno, dove è già operativo il terminal appunto della conduttura del TAP. Nel provvedimento ministeriale è specificato che i termini per la realizzazione del progetto megadotto IGI Poseidon tratto Italia sono così prorogati: il termine per la via dei lavori è prorogato al 1 ottobre 2023 e il termine per la fine lavori è prorogato al 1 ottobre 2025. Il decreto del ministro Roberto Cingolani sposa quindi la filosofia produttivista che sta caratterizzando l'esperienza del governo guidato da Mario Draghi, e rende quindi realizzabile il progetto EastMed sostenuto da Israele con Stati Uniti d'America e Unione Europea. La società che cura il progetto, la IGI Poseidon, è composta dall'azienda di Stato greca DEPA, dalla Edison, braccio italiano dei, e dei francesi di EDF. Nel processo dunque, come vi dicevo prima, di decarbonizzazione, la Puglia diventa così uno snodo essenziale, perché il governo ha quindi questa roadmap che prevede di arrivare a quest'uso maggioritario, appunto come vi dicevo, dei rinnovabili, riducendo prima il carbone, poi il petrolio e poi il gas. Questo gas che poi, secondo le idee di questi grandi geni che vogliono fare comunque del meridione una terra di conquista, e soprattutto la città di Taranto l'emblema della loro conquista capitalistica che si traduce in morte e distruzione, vorrebbero poi utilizzare questo gas per la produzione appunto dell'acciaio nello stabilimento di Taranto, e mi sembra giusto proprio per puntare, è un chiaro segno verso il puntare verso le energie rinnovabili. Dunque, quindi è importante opporsi a questo progetto, per questo dicevamo anche prima con i compagni un po' prima della trasmissione il fatto perché l'internazionalismo e la Palestina rappresenti uno snodo fondamentale, proprio perché strettamente connesse ai nostri territori, alle strategie geopolitiche che vedono appunto l'Italia al centro del Mediterraneo, sebbene siamo governati comunque, abbiamo Gigino Di Maio che ieri presiedeva la commissione, questo consiglio anti-ISIS che si è riunito a Roma e che ha visto la presenza anche dell'ambasciatore americano, che ha rimarcato i buoni rapporti, gli ottimi rapporti tra Italia e Stati Uniti, e dove si è sostanziata questo incontro della coalizione con un sostegno italiano quindi al progetto anti-iraniano, italiano al progetto anti-iraniano degli Stati Uniti e di Israele, e allo stesso tempo ha visto come non partecipi coloro che sono stati la forza determinante per sconfiggere l'ISIS, ossia i curdi le curde dell'IPG e dell'IPG, e che anzi ora il Kurdis e soprattutto i lavoratori il Partito dei Lavoratori del PKK sta resistendo invece all'avanzata dello Stato turco, e ha lanciato anche un appello che vi leggeremo dopo a sostegno, un appello internazionale di solidarietà per questo attacco disumano che sta, per i crimini di guerra che sta commettendo la Turchia. Suffering from malnutrition. Bene, come vi dicevo prima, vi parlavo di questo appello alla mobilitazione in Italia lanciato dalle compagne e dai compagni curdi proprio in relazione alla campagna militare portata avanti nel Kurdistan meridionale da parte dell'esercito turco. Il 23 aprile scorso lo Stato turco ha iniziato una campagna militare nel Kurdistan meridionale, attaccando le regioni di Zap, Avashin e Metina. Questa campagna è cresciuta in intensità e portata. Erdogan per anni ha cercato di garantire alla Turchia la posizione di potenza dominante, cercando di ripristinare i fasti dell'impero ottomano. Il suo obiettivo è quello di occupare le parti del Kurdistan confinanti con la Turchia. Nel 2018 le forze dello Stato turco e gli alleati jihadisti hanno occupato la regione siriana a maggioranza curda di Afrin. Questa occupazione adesso è stata estesa al nord-est della Siria e al Kurdistan meridionale, provocando sfollamenti di massa e centinaia di vittime civili. I guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, stanno resistendo a questa invasione nonostante l'esercito turco, forte del sostegno della NATO che ha bisogno della Turchia per motivi geopolitici, abbia fatto uso di armi chimiche, proibite dalle convenzioni internazionali. Tutto questo nonostante le forze curde abbiano avuto un ruolo di primo piano nella sconfitta dello Stato Islamico e nella protezione delle popolazioni yazide di Sinjar in Iraq. Ai primi di giugno una delegazione internazionale della campagna internazionale Defend Kurdistan si è recata nel Kurdistan meridionale per richiamare l'attenzione sull'occupazione turca e la violazione del diritto internazionale. Sfortunatamente il KDP, Partito Democratico del Kurdistan, in accordo con la Turchia, ha ostacolato il lavoro della delegazione internazionale. Inoltre, in linea con l'atteggiamento di riconciliazione di molti paesi europei con il regime turco, a molti attivisti in partenza da Düsseldorf è stato impedito di partire e di prendere parte alla delegazione internazionale. Chiediamo a tutte le organizzazioni della società civile, ai partiti, alle organizzazioni sindacali, agli amici del popolo curdo di mobilitarsi nelle forme più variegate possibili per fermare l'occupazione del Kurdistan e l'aggressione dell'esercito turco e delle forze jihadiste alleate. E quindi questo è il comunicato che ci avviene dalle compagne e dai compagni curdi proprio per manifestare in solidarietà e contro questo ennesimo attacco della Turchia. Bisogna capire anche un po' il panorama politico. Quando parliamo del KDP, prima abbiamo nominato il Partito Democratico del Kurdistan, che questo partito è un partito maggioritario nel governo di coalizione del Kurdish National Government della regione del Bashur e sta facilitando appunto l'invasione turca del suo territorio in seguito a un accordo economico proprio con Erdogan. Il KDP fa capo alla famiglia Barzani e controlla le zone di Ewer, Erbil e Duok. Ufficialmente il KDP ha adottato la storica retorica turca per cui il motivo dell'invasione è la presenza in Bashur del PKK, che da 40 anni nella zona di Kedir resiste al tentativo di genocidio del popolo curdo a opera dello Stato turco. Il leader del PKK, Abdullah Öcalan, è imprigionato in isolamento in Turchia da oltre 20 anni e è sui suoi pensieri appunto si basa quella che è stata la rivoluzione nella Siria del Nord-Est. Il governo di coalizione del KRG vede come secondo partito il PUK, il Patriot Union of Kurdistan, che è legato alla famiglia Talabani, che controlla la zona di Sulemania. Finora lo Stato turco ha stabilito decine di basi militari nel nord del Bashur con l'aiuto del KDP e sta utilizzando armi chimiche contro la guerriglia del PKK. Il Bashur o Sud Kurdistan corrisponde al nord dell'Iraq e dopo un secolo di lotte tra i vari attori della zona, tra cui KDP, PDK, governo centrale iracheno e Iran, l'autonomia della regione si stabilizza in seguito alla rivolta dei vari gruppi curdi contro il regime baathista di Saddam Hussein durante la seconda guerra del Golfo nel 2003. Sconfitto il regime, la regione venne ufficialmente riconosciuta come autonoma nella Costituzione irachena del 2005. Ricordiamo anche che lì c'è una presenza italiana. Nel 2014 la presenza sempre più massiccia dello Stato Islamico ha visto i Peshmerga del KDP e del PUK riconquistare la città di Kirkuk ma abbandonare il massacro, le città di Sengal e il popolo Ezida, che è stato solo successivamente assistito solo dal PKK. In un referendum del 2017 la popolazione del Bashur ha espresso la volontà di rendersi totalmente autonoma dall'Iraq, ma in seguito alle pressioni di Baghdad e allo scontro con milizie sciite, la richiesta è stata messa da parte e Peshmerga hanno restituito al governo centrale la città di Kirkuk. Questo è per farvi capire in che contesto si sviluppa questa invasione turca, e anche il ruolo che svolge la famiglia Barzani e la famiglia Talabani in funzione anti PKK, che un po', come ci ricorda un po' il ruolo dell'autorità nazionale palestinese, facendo le dovute differenze anche tra i conflitti e la storia delle due organizzazioni, sebbene anche le stesse si intreccino, visto che il PKK sviluppò le sue, diciamo, fu addestrato nei campi profughi palestinesi nel Libano gestiti dal Fronte Popolare. Corre, se non numero mi se numero, tempo scorre, non panna a scorre. Tutti i minuti possono essere utili, per essere l'ultima. La chance è una, voglio la folla, voglio l'attimo, treno passa, poi ogni persona una volta sola. Una colpa di rabbia a terra, o si incudi, o si mai tira. Muovete, muovete, muovete, o va in terra. Parte per prima, si parte per guerra. Quello che vince su gira è chi la cantena, più niente da perdere, niente per terra. Chi parte per prima va parte meglio, meglio che scegli che ti fai scegliere. Ci pensa, si da solo un tarrapiglio, perché se tu cura non guarda nessuno, perché nessuno tiene tempo, perché nessuno ti assomiglia, una corsa per crescere una cosa pazzesca, lo cacci l'artiglio, finisce la pacienza e parte lo capo, se tu stai cura, perché tu fa differenza. E sono sicuro che a volte te va buoni, a volte è solo un'esperienza, la metta assieme a tutto che lato che hai fatto e che prova, c'era una coerenza. E forse è strana sta trama, che adesso ti chiama, risponde la sgama, che ovvero t'acclama e sicuro si proclama, perché le che state si tiene una coscienza se facesse un esame. Curre, curre senza mai guardare, curre, curre tu non te fermà, curre, curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Curre, curre non te fa bloccare, un tempo corre tu alla piglia, curre, curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Curre, curre senza mai guardare, curre, curre tu non te fermà, curre, curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Curre, curre non te fa bloccare, un tempo corre tu alla piglia, curre, curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Fa fare la fanna, pigliacciata quando la fanno poco fanno l'ora e se ne vanno. A ogni mare gioco l'occhio e la marina parta, voglio fa sta buona a chi saranno. Dirte che sto scendo e cambio, portamo lontano la tempesta e dammo un segnale che resta. Chi sa e chi scende, chi accatta e chi venne e chi come in una carta buona sa spenna. Sti vene che mi portano, stufiato curto per me più forte, chi lega supporta e curra, fianche e fianche, spalle e spalle, dopo veniamo alla shot. Soprattutto sta corta, che è un andamento costante, dopo la stemma può succedere un istante, capisci che ti amo così, vuoi essere più veloce tutto quanto. C'è sta che sti pieri in chiume, che sti pieri porta nanta. Nonostante i bombo che giovane a cielo e scarano accanto, nonostante tutto, tutto, tutto, non ti ferma, non ti fa fa, la chi ti può fa sta, chi si ferma è perduto e chiude, a roppe inutile a chiagnere a chiedere aiuto, e mi resta tu cuore là, inizia si è caruto, inizia su su te fa, un tempo non è finuto, è tempo lotta, è tempo che ha tutto quello che era, torna muovete, va la piglia, se ho lascio perduto è tutto quello che hai fatto, nessuno tu dà. Curre curre senza mai guardare, curre curre tu non te ferma, curre curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Curre curre non te fa bloccare, un tempo corre tu alla piglia, curre curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Curre curre senza mai guardare, curre curre tu non te ferma, curre curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Curre curre non te fa bloccare, un tempo corre tu alla piglia, curre curre in tasta giungla, buco te banca, te buco te ba. Bene Davide, ritorniamo in voce, siamo arrivati ormai quasi alla conclusione di questa puntata di Andala. Anche in questa puntata è stata decisamente ricca, abbiamo affrontato vari temi, soprattutto temi che non riguardano soltanto, come dire, non sono notizie soltanto legate al Medio Oriente o ad altri posti del mondo, ma ci riguardano molto da vicino. E infatti chiaramente, Davide, penso che condividi anche tu l'appello comunque a partecipare a tutte le mobilitazioni che ci saranno durante l'estate nelle varie città d'Italia, che sono ancora in fase di organizzazione, proprio perché in questo momento c'è particolare bisogno soprattutto di attenzione e sensibilità verso quello che sta avvenendo attorno a noi, perché come denuncia anche Franz più volte sempre dai microfoni di Radio Asilo, ci stanno spacciando questa transizione ecologica come una cosa bella, una cosa green che porterà lavoro, pulirà l'ambiente eccetera eccetera, però in realtà questo sarà un ulteriore scatto peggiorativo delle nostre vite, perché questa transizione non sarà affatto green e soprattutto non sarà affatto indolore. E appunto queste notizie che riportiamo, pure di questi mega progetti, di queste mega opere che vengono fatte con i nostri soldi fondamentalmente, alla fine finiscono semplicemente per danneggiarci, per danneggiare le popolazioni che si trovano appunto in prima linea dove vengono costruiti questi mostri, ma danneggiano proprio la collettività, in quanto queste opere vengono fatte con i nostri soldi. E tanti anni di lotta no TAV, spero che ci abbiano insegnato qualcosa. Ieri per esempio, Davide, mentre tornavamo mentre stavamo in macchina, che tornavamo da Bari, ragionavamo pure su quello su che cosa significa anche difendere la propria terra, su che cosa significa difendere la propria comunità e qual è la differenza di significato, e non è assolutamente un particolare, tra il difendere la patria e invece il difendere la propria terra, il difendere la propria comunità. Sono due cose estremamente diverse. Questo, vabbè, ovviamente si inserirebbe in un discorso sì antimilitarista, ma che però in ogni caso non vede a prescindere di cattivo occhio, come dire, l'uso popolare della forza armata, perché oggi in tutto il mondo si è andato negli ultimi decenni nella direzione di creare eserciti professionali che sono sempre più efficienti, anche perché per combattere la guerra moderna c'è bisogno di meno uomini. E quindi chiaramente nel corso di questi decenni si sono andati a creare questi eserciti professionali. Israele è stato, come dire, un esempio, perché lì fanno la leva obbligatoria universale, quindi sia maschile che femminile, però contemporaneamente appunto hanno militarizzato un'intera popolazione sionista, perché poi ovviamente la leva militare rappresenta anche un momento di indottrinamento in cui si cerca di inculcare una certa disciplina eccetera. Il problema è quale indottrinamento viene fatto, quale disciplina viene insegnata, e soprattutto queste armi poi per quale motivo vengono utilizzate, soprattutto per conto di chi. Questa era la differenza tra il proteggere la propria patria e la propria terra. A parte che lo ricordiamo, con tutto il rispetto che possiamo avere per la Costituzione, sono ironico, in ogni caso l'Italia ripudia la guerra, eppure nonostante questo ragionavamo ieri che l'esercito italiano è uno dei più avanzati tecnologicamente di tutto il mondo, tant'è vero che le varie industrie militari italiane esportano armamenti in tutto il mondo, fanno affari con criminali di guerra, dall'Arabia Saudita a Israele eccetera. E chiaramente questo ovviamente non può essere esente da qualunque discorso politico che viene fatto rispetto soprattutto ad un agire collettivo, proprio per cercare di cambiarla in qualche modo questa società, e non invece di subire passivamente tutto quello che ci arriva, che magari ci viene presentato con un bel pacco, diciamo, con un bel incartamento, su un bel vassoio, però come la TAV, come la TAP, eccetera, poi in realtà rappresentano delle opere che vanno a minare seriamente quelle che è, come dire, la qualità della vita delle comunità coinvolte, oltre, come dicevo prima, ad essere un danno per la collettività. Bene, io penso di essermi anche dilungato troppo in questo, diciamo, piccolo ragionamento che mi veniva in mente ascoltando le notizie che abbiamo passato in rassegna prima e che appunto non sono notizie date così a caso, perché sono notizie collegate tra loro, collegate appunto da quel filo rosso che è l'internazionalismo proletario, che non è la solidarietà tra i ricchi, perché in realtà i soldi sono tutti uguali, è la solidarietà tra i popoli, è la solidarietà tra le persone ed è la solidarietà tra gli oppressi che può muovere le, come dire, la storia. Ecco, facciamo quest'ultima pausa musicale e poi ritorniamo in studio per i saluti. Bene Davide, torniamo in voce per l'ultima volta questo martedì, sono le 19.53, siamo giunti alla fine di questa puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Nel frattempo vi ricordo i nostri contatti, se appunto ci volete scrivere, la nostra pagina Facebook è Collettivo Andala Salerno, oppure potete anche scrivere alla casella di posta elettronica di Radio Asilo, che è radioasilo@protonmail.com. Inoltre potete rimanere aggiornati con gli eventi di Radio Asilo anche attraverso il nostro canale Telegram, che è appunto Radio Asilo, e soprattutto insomma vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento a martedì prossimo.